E poi un comma inserito dal governo Prodi nella finanziaria 2007 permette ai medici che lavorano nel piccolo ospedale di Palazzo Chigi di esercitare attività ambulatoriali esterne. Vietate invece ai colleghi che hanno l'intramoenia. Sì, avete ragione che mette di cattivo umore sentire gli sprechi, però noi siamo qua per raccontare cosa non va sia sul fronte tedesco ma anche sul fronte di casa nostra, senza sconti per nessuno. La borsa. Molti mi accusano di aver rovinato il pomeriggio. Ragazzi, che devo fare? Questa è l'Italia in cui le virtuose regioni, i virtuosi comuni davano sempre lezioni allo Stato centrale. Ma poi tanto ci torniamo ogni giorno, non c'è problema. Se poi la Regione Lombardia vuole chiarirci cos'era la festa dei popoli per farne di tutti i colori, siamo sempre qua in attesa. E anche perché spende di più per il festival della canzone lombarda o celtica che per le campagne contro l'alcol ai giovani o contro le mafie. Siamo sempre qui. La borsa, dicevo, come sempre con Radio Colle sulle 24 ore. Andrea Fontana, buonasera. Buonasera Sebastiano. Allora, hanno un po' rallentato nel finale le borse per un avvio incerto di Wall Street. Andavano tutte quante bene. Wall Street adesso, nello specifico, guadagna lo 0,15%, Parigi più 0,80% nel finale, Francoforte più 0,88%, Milano più 0,40%. Di Impregilo parliamo tra un attimo. Andiamo su Finmeccanica, la migliore. Meccanica molto tonica a partire da questa mattina, due o tre le indicazioni che sono arrivate. Innanzitutto una conferma dei target per l'esercizio in corso, ma nello stesso modo anche una conferma di quelle che sono le prospettive per il piano di dismissioni a cui il mercato sta guardando, sia in termini di dimensione, cioè 1 miliardo, sia in termini di tempistica, cioè entro fine anno una serie di dismissioni che riguardano Ansaldo Energia, forse Ansaldo STS e Ansaldo Breda, ma anche una commessa importante per oltre 300 milioni annunciata nel corso del Salone Aeronautico di Farnborough, commessa per la controllata Augusta Westland, e questo appunto ha dato la spinta al titolo, che è arrivato anche a guadagnare oltre il 6%, ha chiuso poi a più 3,9%. Ancora per quello che riguarda invece altri titoli, bene sia Fiat che Fiat Industrial che Exor, più 2,6, più 2,4 e più 2,3. Sì, una certa attenzione per l'intero settore auto in Europa, l'indice complessivo ha guadagnato l'1,7%, un'attenzione che è partita innanzitutto dalla Francia, secondo i giornali e secondo indiscrezioni, insomma, ci sono la possibilità che il governo francese stia pensando ad incentivi per le auto francesi, e lì naturalmente Fiat ha un peso non come quello che ha in Italia, quindi l'impatto secondo gli analisti per Fiat sarebbe marginale, ma ne ha risentito positivamente il settore, e Fiat ha guadagnato 2,6 con nel titolo appunto del settore auto, il 2,4 in Fiat Industrial, mentre la società di riferimento, cioè l'azionista di riferimento Exor, ha guadagnato il 2,3%. Ancora di Impregilo diremo tra un attimo, mentre Tenaris, il mercato sta tornando, mi sembra, su Tenaris. Sì, c'è un certo ritorno, diciamo che gli analisti stanno ragionando sia su Tenaris che sulla sua concorrente Valurec, c'è stato un certo spostamento da parte di alcuni case d'affari su Tenaris rispetto a Valurec, oggi ha guadagnato lo 0,8 mentre Tenaris ha guadagnato oltre 2%, è ritenuta sottovalutata con buone prospettive, per questo motivo oggi ha sfiorato l'area di 14,50 centesimi. Ancora un paio di titoli, innanzitutto Safilo ha rinnovato il contratto con Hugo Boss e il titolo ne ha beneficiato. Sì, soprattutto pensando a Safilo, aveva avuto problemi con la chiusura della licenza con Armani, e oggi la spinta del contratto della licenza con Hugo Boss, che è stata rinnovata fino al 2020, gli ha fatto guadagnare anche oltre il 5%, poi la correzione generale degli stimi ha portato a guadagnare un po' meno, ha chiuso più 2,2%, comunque una buona notizia industriale che ha avuto anche effetti finanziari e di mercato per Safilo. Sì, e chiudiamo anche oggi con Fondiaria Sai da un lato e tutta la galassia, o il buco nero di Gresti, come lo chiamo io. Fondiaria Sai oggi guadagna il 9%, evidentemente il mercato ci ha ripensato rispetto a ieri, il motivo? Innanzitutto le perdite che erano arrivate con la giornata in cui erano stati comunicati i prezzi d'aumento di capitale, forse anche un po' in anticipo diciamo rispetto alla tempistica, soprattutto e poi in cui era arrivato lo stop della Consob e quindi il ritardo, lo slittamento dei tempi d'aumento di capitale avevano messo di malumore il mercato, avevano portato a forti vendite, quindi un rimbalzo ci sta. Oggi molte indicazioni sono arrivate dal management, soprattutto per l'inizio dell'aumento di capitale, che dovrebbe, l'obiettivo è quello di farlo partire appunto il 16 luglio, e insomma il mercato oggi si è un po' ricoperto, ma certamente insomma è ancora da capire tutta l'evoluzione, e senz'altro il mercato sta speculando molto su questi titoli, anche gli altri coinvolti, Premafin, Unipol e Milano Assicurazioni sono mossi molto oggi. In negativo invece la Popolare Emilia Romagna meno 1,5%, Steam Microelectronics meno 1,30%, Telecom meno 1% come A2A e Intesa San Paolo, ma anche Enel Green Power perde lo 0,90%. Bene anche oggi in pregilo, in vista della giornata cruciale del 12 luglio, e di in pregilo parliamo adesso. Tra l'altro è arrivata una notizia che c'è stato il rialzo dell'offerta da parte di Prima su Ecorodovias. Ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una vicenda che occupa le pagine dei giornali e anche i nostri spazi da diversi giorni. In ballo c'è il controllo del più grande gruppo di costruzioni in Italia. Devo prima di tutto però leggere un messaggio che mi fa impazzire, penso che sia un insulto, ma recita così: Barisoni, lei a volte rivela dei tratti psicologici. È vero, ogni tanto rivelo dei tratti psicologici. Ha mai provato con delle sedute da un bravo psicoanalista? Le farebbero bene. Questo è indubbio, però ammetto di avere dei tratti psicologici ogni tanto. Parliamo di in pregilo, vai. E allora parliamo della sfida per la conquista di Impregilo in vista dell'Assemblea degli azionisti del prossimo 12 luglio, che dovrà votare la revoca del Consiglio di amministrazione ed eventualmente eleggere il nuovo board, il nuovo Consiglio di amministrazione. A fronteggiarsi sono il gruppo Saline e il gruppo Gavio, entrambi hanno il 29,9% del capitale di Impregilo e quindi a fare la differenza saranno i voti degli azionisti minori e dei fondi di investimento, a cominciare dal più grosso, ossia Amber, che ha il 5%. C'è anche un'altra ipotesi, l'ipotesi del cosiddetto piano B, ossia quello messo a punto dallo studio Vitali Associati, che prevederebbe una sorta di spartizione tra i due contendenti. E ci sono diverse prospettive industriali. Ne parliamo con chi, oltre che essere advisor del gruppo Salini, guida la lista per il nuovo consiglio di Impregilo se l'Assemblea del 12 luglio revocherà quello attualmente in carica, e mi riferisco a Claudio Costamagna, ex Goldman Sachs, ex banchiere di Goldman Sachs. Buonasera, dottor Costamagna. Buonasera. Dunque, è una sfida che diventa sempre più calda in vista del 12 luglio. Da come abbiamo capito noi, la sfida non è solo sul controllo di Impregilo in senso stretto, ma una diversa concezione diciamo dello sviluppo e quindi anche della strategia industriale. Ci può riassumere quello che voi tra virgolette contestate o quelle che sono comunque o sarebbero le vostre linee nel caso passasse appunto la revoca dell'attuale Consiglio di Amministrazione? Ma sì, dunque, in effetti c'è una grande differenza dal punto di vista strategico. Noi crediamo che Impregilo debba essere fondamentalmente un costruttore. Questo è il DNA della società. Negli anni 60-70 Impregilo era un fiore all'occhiello dell'industria italiana, ha lavorato in tutto il mondo facendo progetti estremamente qualificanti e importanti, e crediamo che questo debba essere il core business della società. Negli ultimi anni Impregilo si è un po' dimenticata di questo DNA, e il business delle costruzioni ha un po' languito. Allo stesso tempo hanno fatto un paio di buoni investimenti in Sud America, entrando nel business delle concessioni autostradali, che è un business che ha chiaramente una congiunzione con la costruzione, perché quello che di solito succede è che per poter prendere dei lavori di costruzione di autostrade o anche altre opere, diciamo, pubbliche, si prevede che il costruttore poi possa ripagarsi l'investimento attraverso una concessione di una certa durata. Si chiamano cosiddetti processi greenfield, cioè si parte da zero, si costruisce, ma una volta che la costruzione è finita, di solito il costruttore esce e lascia il campo a chi fa di mestiere il concessionario. Questo non è successo con Impregilo. Impregilo è rimasta in questi progetti ed è diventata praticamente concessionaria, tant'è che un investimento principalmente in Brasile, in una società che poi è stata quotata in borsa, che fa oramai solo la concessionaria, l'investimento in questa società di Impregilo, anche perché in un paese ad alta crescita come il Brasile, ha raggiunto un valore che è praticamente pari al valore di tutta Impregilo. Quindi vuol dire che il mercato ancora oggi valuta il business della costruzione, cioè il vero core business della società, praticamente pari a zero. Quindi quello che noi proponiamo è di vendere questa partecipazione, di quindi incassare molti quattrini, pagare un dividendo agli azionisti e allo stesso tempo rifocalizzare il business sulla costruzione, avendo chiaramente come gruppo Savini lo stesso DNA alle spalle e a termine di queste serie di operazioni trovare il modo per integrare Savini in Pregilo, anche perché nel business delle costruzioni, come in tutti i business, la scala è assolutamente molto importante. Per poter andare a prendere progetti grossi in giro per il mondo, più grosso sei, più hai le spalle larghe, più è facile prenderli e soprattutto è facile eseguirli, che è dove la differenza si fa, perché i profitti si fanno nell'esecuzione e non nel prendere i progetti. Per cui questo è il nostro progetto, crediamo che ci sia molto spazio nel mondo per un player come un player integrato Savini in Pregilo. Abbiamo fatto un progetto di integrazione tra due business che sono estremamente complementari e quindi questo è quello che noi vorremmo fare. Dall'altra parte invece si insiste nel concetto di conglomerata, cioè di mettere insieme due business, costruzione e concessioni, che a parte questo impatto iniziale non hanno molto senso di stare insieme, anche perché hanno dei profili di rischio di ritorno molto molto diversi. Chiarisco una cosa, perché giustamente alcuni di voi me la stanno chiedendo via SMS al 349-238-6666. Abbiamo ovviamente invitato anche gli esponenti del gruppo Gavio a partecipare, il presidente Palenzona, il vicepresidente Grospietro. Per ora abbiamo ottenuto un no, i nostri microfoni sono aperti anche domani, il 12 poi c'è l'assemblea, casomai li sentiremo dopo. Per noi questo, quella, pari son, come cantava il Rigoletto. Andiamo avanti, dicevo, Costamagna, l'attuale società di controllo invece, e quindi Gavio, è contrario alla cessione delle partecipazioni per come voi le avete proposte, cioè voi volete vendere quello che non è attività core, attività centrale, loro no. Però intanto però hanno avviato la vendita del 20% di Ecorodovias, e quindi la contata brasiliana, per quasi 700 milioni di euro al socio brasiliano, senza una gara e mantenendo una quota del 10%, che chiaramente non è più una quota di controllo. E i proventi sarebbero utilizzati poi da Impregilo per un piano di riacquisizione di azioni proprie, ma insomma il fatto che abbiano ceduto il 20% di Ecorodovias non va nella vostra direzione, cioè non vi soddisfa? Non è nella linea che avete chiesto? Prima di tutto è strano che prima che lo dicessimo noi non ci hanno pensato minimamente a farlo, quindi hanno fatto questa operazione semplicemente perché hanno capito che il mercato era quello che voleva, quindi per cercare di raggranellare un po' di favore da parte degli interessi delle sensi di minoranza, che era quello che chiedevano. Quindi prima cosa, loro fino a un mese e mezzo fa dicevano che non se ne parlava assolutamente neanche di vendere una quota di Ecorodovias. Poi tutto ad un tratto hanno annunciato questa operazione, che ancora non è stata fatta chiaramente, ma che è una proposta, che secondo noi però distrugge valore, non crea valore, perché mantenere un 10% in Ecorodovias serve a ben poco e soprattutto abbatte il valore di quel 10%. Il 19% che nella proposta verrebbe venduto è valorizzato più o meno a prezzo di mercato, mentre secondo noi, se si andasse a vendere in un processo competitivo il 29%, che è una quota molto importante, si potrebbe raggiungere dei premi sostanziali rispetto al prezzo di mercato. Quindi secondo noi questa operazione è sbagliata, è stata fatta solo un po' per copiarci e per fare lo specchietto della lodola agli azionisti di minoranza, Anche la seconda fase, che è quella del buyback, secondo me non ci soddisfa, perché secondo me è molto meglio pagare un dividendo con quelle risorse piuttosto che fare un buyback che favorisce l'azionista al 9%, che attraverso questo buyback può aumentare la propria quota in esenzione di OPA, e quindi non ci sembra giusto. Per cui sia le due operazioni che questo nuovo consiglio, che è il consiglio di cui noi avevamo chiesto la revoca, 7 di quei membri si sono dimessi, non sappiamo bene per quale motivo, a parte il Presidente, ma gli altri si sono dimessi e quindi sono stati cooptati 7 nuovi consiglieri. Ricordiamoci che un nuovo consiglio, quello attuale, è abbastanza delegittimato, perché sicuramente non è stato approvato dall'Assemblea. Vedremo il 12 cosa succede. Ecco, su questo però mi faccia capire una cosa. Voi avete molto evocato in questo scontro del 12, insomma, chiamiamolo scontro perché tanto questo è, voi chiedete la revoca dell'attuale Consiglio di Amministrazione e invece Gavi vuole mantenerlo. Ma avete spesso fatto riferimento a manovratori o poteri forti, o insomma, dando l'impressione che ci fosse vecchi poteri contro il cambiamento. Ecco, ma a chi si riferisce? Nel senso che quali sarebbero perlomeno, insomma, i poteri che vorrebbero mantenere l'attuale CDA e quindi anche il ruolo di Gavio nella gestione del gruppo Impregilo? Diciamo che il gruppo Gavio storicamente è alleato a molte persone, in luogo Mediobanca, di cui è azionista Gavio, quindi certo. Azionista e membro dello spazio di sindacato. Quindi no, noi quello che abbiamo detto è: stiamo attenti a che l'assemblea si svolga nella maniera più trasparente possibile. Quindi se ci sono degli azionisti che sono effettivamente alleati di Gavio, beh, per la legge sull'OPA non dovrebbero votare, perché chiaramente se lo gago il 29% basta aggiungere un 0,5% di qualcuno che è alleato a Gavio, alleato formalmente a Gavio, e questo farebbe scattare immediatamente l'OPA per la legge. Quindi se queste persone dovessero venire a votare e ci sarebbero prove di un'alleanza stretta tra queste persone, questo secondo noi non sarebbe regolare. Quindi questo è quello che abbiamo detto, abbiamo chiesto a Consob di vigilare, cosa che stanno facendo, per verificare che l'assemblea si svolga in maniera totalmente regolare e trasparente. Ecco, un'ultima domanda, ma per quello che riguarda sempre l'assemblea del 12, a voi i lavoratori rappresentanti sindacali di Impregilo, cioè dell'oggetto del contendere, si sono schierati a favore di Gavio. Voi temete che questo possa in qualche modo pregiudicare? No, dunque, loro si sono schierati all'inizio perché hanno paura, chiaramente, come sempre succede quando si dovesse arrivare all'integrazione tra le due società. È chiaro che una delle sinergie classiche delle due società sono esuberi. Ma noi abbiamo detto chiaramente, Pietro Salini ha scritto una lettera a tutti i dipendenti di Impregilo in cui nel nostro piano industriale le vere sinergie avvengono dai ricavi, non dai costi, perché secondo noi, appunto, come dicevo prima, le economie di scala che possiamo raggiungere insieme sono notevoli e ci può consentire di andare a prendere dei lavori che oggi né Impregilo da sola né Salini da sola potrebbero prendere. Per cui sotto questo punto di vista abbiamo dato totale assicurazione al fatto che, anzi, uno dei motivi per cui si vorrebbe controllare Impregilo e si vorrebbe prendere in mano Impregilo è proprio per la grandissima professionalità che c'è in Impregilo. Ripeto, Impregilo per tanto tempo è stato veramente un fiore all'occhiello dell'industria italiana, e questa professionalità esiste ancora. Secondo noi negli ultimi anni chi ha gestito la società non ha veramente saputo sfruttare questa professionalità al massimo. Salini è una società che negli ultimi 10 anni è cresciuta enormemente, che ha dimostrato di saper fare questo mestiere molto bene, e quindi siamo convinti di poter, con un nuovo management, riuscire a sfruttare queste enorme professionalità che esistono in Impregilo. Un'ultima domanda che non c'entra, in bocca al lupo a voi, come abbiamo fatto in bocca al lupo a Gavio, insomma, vedremo poi come andranno le cose il 12, ma una domanda riguardo la sua attività, perché lei, insomma, è stato uno degli italiani più importanti in banche ed affari internazionali, mi riferivo appunto a Goldman Sachs. Che effetto le ha fatto vedere in questi giorni la vicenda che ha travolto Bob Diamond e Barclays e che rischia anche di travolgere i vertici di Deutsche Bank, che va a sommarsi a quanto accaduto in America con nuove operazioni sui derivati? Cioè, lei, che quel mondo lo conosce molto bene, anche perché ne ha fatto parte per lungo tempo, ritiene che la visione un po' alla Gordon Gekko, cioè di una avidità che non riesci a controllare, quasi una visione psicanalitica più che finanziaria, sia vera e quindi c'è... No, non sarei a, a smobilitare Freud. No, allora mettiamo così, lo scorpione e la rana, Esopo, no, cioè, okay, c'è, che c'è una tendenza a rifare le stesse... Prego. L'ho già detto più di una volta anche in pubblico, uno dei motivi per cui io ho deciso di lasciare nel 2006, quindi un paio d'anni prima la crisi, perché come uno dei motivi, non è certo l'unico motivo, ma uno dei motivi è anche perché cominciavo a vedere cose che non mi piacevano, cioè la cultura di Wall Street e della City a metà degli anni 2000 è cambiata radicalmente, anzi all'inizio, dopo il 2012, e quindi io non mi ci ritrovavo più, diciamo, ed è uno dei motivi, ripeto, per cui ho deciso di mettermi da solo, di fare altre cose. Quindi, ma secondo lei, visto che li conosce da queste cose mi sorprendono fino a un certo punto. Ecco, questo volevo capire. Lei è sorpreso oppure ritiene che, come lo scorpione e la rana, citavo prima, insomma, è l'istinto e quindi da lì o farai una legge che in qualche modo ripristini il Glass-Steagall Act? Per fare le leggi ci vorrebbe un'autorità mondiale, di vigilanza mondiale, cosa che non esiste e che purtroppo non esisterà per molto tempo perché è quasi impossibile da fare. Quando i mercati non sono regolamentati e soprattutto non sono vigilati, è chiaro che queste cose succedono. Succedono di più in certe istituzioni, di meno in altre, succedono di più in certe giurisdizioni, di meno in altre, però succedono. L'unica soluzione vera e propria, secondo me, è quella appunto di almeno una vigilanza e una regolamentazione a livello, diciamo, continentale, perlomeno, quindi a livello europeo. Quindi io sono sicuramente per dare maggiori poteri alla Banca Centrale Europea sotto questo punto di vista, e così come c'è la Fed in America, e poi una stretta collaborazione tra le autorità di ogni continente, quindi Banca Centrale Europea, Fed, SEC e così via, su questi temi, perché è l'unica maniera per poterla risolvere, se no purtroppo ogni tanto salterà sempre fuori qualcosa. Vorrei chiedere un'ultima cosa al dottor Claudio Costamagna, che è appunto advisor per il gruppo Salini. Abbiamo parlato fino adesso della lotta per il controllo di Impregilo, ma stavamo chiudendo sui temi della finanza deviata, come la chiamo io, perché Barclays prima, ma non solo, JP Morgan, vediamo Deutsche Bank, insomma i grandi banchieri di cui lei ha fatto parte per molto tempo in Goldman Sachs sono tornati coi vizi di prima. Allora, che sia lo scorpione con la rana, che sia il Gordon Gekko, ma insomma sono vizi talmente strutturali in chi gestisce le grandi banche d'affari che secondo lei resisteranno e resteranno? Molte cose sono già state fatte, voglio dire, in America le banche di estrazione americana hanno una capacità nettamente inferiore di fare quello che è stato fatto prima del 2008. Prima non hanno più la capacità di leva che avevano prima, che era molto importante. Secondo, sono sottoposti a una serie di controlli a cui prima non erano sottoposti. Quindi non dico che possa ritornare esattamente a quello che è successo, però sicuramente ci sono ancora molti loopholes, molte sacche dove si può fare. Tra l'altro, io un tema che nessuno solleva e che invece va sollevato soprattutto quando si parla di mercato dei derivati e delle structure notes è quello degli investitori, perché il focus va sulle banche, cioè su chi, diciamo, struttura questi prodotti e li vende, ma nessuno parla di chi li compra. Ora, le banche lo fanno perché c'è qualcuno che li compra, perché se non ci fosse nessuno che li compra, tutti ci occupiamo del pusher, ma nessuno si occupa dell'acquirente. Mentre invece forse dovremmo andare a vedere questi investitori, che sono tutti investitori qualificati, perché sono prodotti che vengono venduti non a retail, ma non al cliente, banche, assicurazioni, fondi pensione e così via, che sono lì, ricevono queste cose, li prendono, li superpagano e nessuno dice niente. Quindi, per usare l'esempio, il reato non è solo vendere certa droga finanziaria, ma è anche acquistarla. Assolutamente. E su questo però non se ne parla. Quindi sì, è più, diciamo, in maniera quasi ipocrita, ci si preoccupa del fatto che ci sia un'offerta, ma nessuno si preoccupa del fatto che vi sia una domanda. Esatto. Dottor Costamagna, la ringrazio, bocca al lupo, ripeto, a voi, come a tutti e due con noi, siamo come il Rigoletto, per me questo è quella pari son, per cui... assolutamente imparziali. Grazie Claudio Costamagna, advisor del gruppo Salini e nonché colui che guida la lista per il nuovo consiglio di Impregilo. Buonasera dottor Costamagna. Arrivederci. In bocca al lupo anche a Gruppo Gavio. Siamo sempre aperti se domani sia Palenzona, presidente o vicepresidente Grosspietro, volessero intervenire in questo programma. Sì, avete ragione, non è Rigoletto che dice questo, quello per me è Parissone, il Duca di Mantova, chiedo venia. Non chiedo invece venia a chi scrive, riferendosi a come la Regione Lombardia sponsorizza le varie manifestazioni. C'è chi si è arrabbiato e ha detto, ma insomma non può paragonare i 700.000 euro della Regione Lombardia per sponsorizzare la festa dei popoli, per farne tutti i colori, la maratona dell'acqua, l'iniziativa sui comportamenti umani, la manifestazione Eroi si diventa, non so, la settimana del canto lombardo, non può paragonare con gli sprechi del sud. Eh no. Gli sprechi sono sprechi, nord, sud, centro, isole, non me ne frega nulla. Non iniziamo con sta logica, sì, ma al sud si spreca di più, perché sennò non la finiamo più. Vabbè, adesso dopo aver raccontato anche gli sprechi di casa nostra e aver raccontato la battaglia per il pregiro, torniamo ai temi europei. Dicevo, bicchiere a mio avviso mezzo pieno, perché i falchi non hanno vinto, confermato come anche i nostri GR vi hanno raccontato. Sul fronte antispread è stata resa operativa l'intesa del vertice europeo, che prevede sostanzialmente che la Banca Centrale Europea sia l'agente del Fondo Salva Stati, quello che diventerà l'ISM, per acquistare le obbligazioni dei paesi sotto tiro della speculazione, quindi quelli cui spread dovesse salire troppo, e quindi per condurre operazioni di mercato in funzione anti-spread. Decisioni importanti nei confronti anche della Spagna: 30 miliardi di aiuti già a luglio saranno erogati dal fondo IFSF sotto forma di un prestito per 15 anni. In questo modo il governo spagnolo di fatto non dovrà dare una garanzia sui prestiti, quindi non dovrà sostanzialmente vedere aumentare il suo debito per salvare le sue banche. E poi questo veniva chiesto invece da alcuni paesi del nord Europa. Tutto dovrebbe essere siglato poi nel prossimo come memorandum nel prossimo incontro il 20 luglio. Allora la ballata dell'euro. Allora, questa è la nostra ballata dell'euro. Ringrazio per averci raggiunto in collegamento il direttore per il Center for European Policy Studies di Bruxelles, Daniel Gross. Buonasera, direttore. Buonasera. Ti piace la nostra ballata? Sì. Finisce con la quinta di Beethoven. Finisce con la quinta di Beethoven. Però, senta, adesso ascoltiamo anche cosa ha detto Mario Monti. Però è d'accordo con che il bicchiere, perlomeno per noi, sia mezzo pieno, cioè la retromarcia, il dietrofront, il tentativo, come alcuni ipotizzavano, di mandare avanti i paesi del nord, Finlandia in testa, una Germania che poi avrebbe così fatto catenaccio, questo non c'è stato? No, per il momento penso che l'Italia si dovrebbe concentrare su due fronti, il fronte interno, cioè fare le riforme e l'aggiustamento fiscale, ed aiutare la Spagna, perché se la Spagna può tirarsi fuori da questo problema che si è creato con le sue banche, allora tutto diventa più facile per l'Italia. Se invece cade la Spagna, per l'Italia c'è poco da fare. È nell'interesse vitale nazionale dell'Italia che la Spagna sia salvata. Ecco, su questo il Premier Mario Monti ha detto: l'Italia non avrà bisogno di fare ricorso allo scudo antispread, ma sarebbe ardito, ha detto lui, escluderlo del tutto per il futuro. Per quanto riguarda il futuro, io posso ragionevolmente esprimermi su il mio personale futuro, ma sarebbe ardito dire l'Italia non avrà mai bisogno di aiuti di questo o di quel fondo. Il principio della prudenza induce a non dirlo. E poi sempre il premier Mario Monti a questo chiesto perché lo spread resta così alto, non c'è stato riferimento al presidente Confindustria stavolta, ho avuto modo di dirlo anche ieri, ognuno la pensi come vuole, le sue dichiarazioni di Squinzi, ma non si può dire che sono quelle che muovono lo spread, così come non ne muovono le dichiarazioni del sottosegretario Polillo né altro. Ma dicevo, Monti ha detto, beh, pesano alcune dichiarazioni dei capi di governo, quindi la colpa è di questa cacofonia europea. Perché gli spread sono dopo un'accoglienza un po' più lunga e un po' più calda del solito che i mercati avevano riservato a questo al Consiglio Europeo, all'Euro Summit, effettivamente le cose si sono poi riposizionate in modo non positivo. Questo può voler dire o che c'è una sfiducia ancora maggiore di quello che si pensava nei mercati per quanto riguarda l'intera costruzione dell'euro, io credo e spero che non sia così, oppure perché siamo 27 o siamo 17 e ma se chi poi non è molto contento o nella persona capo di governo che ha partecipato alla riunione o in altri membri dello stesso governo non è molto contento del risultato raggiunto e fa dichiarazioni, non mi riferisco come è noto a nessun paese in particolare, fa dichiarazioni che riducono la portata agli occhi del mercato, allora torna più chiaramente in mente ai mercati la fitta selva di possibili occasioni ostative che intercorrono tra un accordo politico al massimo livello e la concreta realizzazione del contenuto di quell'accordo. Daniel Gross, lei è d'accordo che l'errore, come dicono alcuni, è stato sminuire, lo ha detto anche il governatore della Banca d'Italia Visco in una recente intervista, sminuire la vera portata dell'accordo del 28-29 giugno, cioè quello che sta dicendo Monti, se poi parliamo con voci diverse l'accordo appare meno importante di quanto non sia? Secondo me l'accordo è stato molto importante, perché la prima volta i capi di Stato hanno riconosciuto che c'è anche il problema della tenuta dei mercati e hanno fatto un passo gigantesco in avanti, dicendo che vorrebbero avere un sistema di supervisione integrato con la banca centrale al capo. E su questo non c'è stato tanto, come dire, tanto discussione. Discussione. I finlandesi, i olandesi a cui si riferiva Monti in particolare, hanno fatto come al solito il gioco della politica interna. Quello lo fa chiunque, cioè tutti gli stati di capo quando tornano a Bruxelles parlano al loro pubblico nazionale. Mm-hmm. E per il momento non vedo nessuna crepa fondamentale, almeno nell'accordo che c'è stato. Ha ragione Mario Monti quando parla di una fitta selva di ostacoli, questi ci sono e adesso vanno presi uno dopo l'altro. Il 20 giugno, il 20 luglio chiudiamo però sta partita, bastano? No. 20 luglio c'è un altro passo, magari importante, questa partita si giocherà per un anno o due almeno, già per avere la supervisione bancaria a livello europeo ci vorranno 6-9 mesi e per quanto riguarda l'Italia i livelli di spread adesso non fanno male ma sono ancora sopportabili, per cui non penso che a questo livello ci saranno interventi cospicui e si sa anche che c'è chi pensa che interventi di piccole dimensioni potrebbero fare più male che bene. Per cui bisogna essere molto cauti nell'aspettarsi degli interventi subito. Come ha detto Mario Monti, per il momento l'Italia non ne ha bisogno. La crisi ci ha insegnato che tutto può accadere, ma io penso che sarebbe nell'interesse dell'Italia di farcela da sola e le risorse fondamentali ce le ha nel paese stesso. E basta mobilizzare adeguatamente il risparmio interno. Vabbè, sul fare i compiti a casa, mentre chiediamo alla Germania di rendersi conto che la casa europea è una casa, non è un albergo con hotel, con camere di lusso e camere da poveracci, io sono d'accordo con lei, Daniel Gross. Noi dobbiamo continuare assolutamente a fare i compiti a casa. Nel ringraziare il direttore del Centro Europeo per gli Studi sulla Politica a Bruxelles, Daniel Gross. Saluto anche il direttore del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano, che ci ha raggiunto in studio. Ciao direttore. Buonasera a voi. Dunque, tutto sommato, chi temeva una vittoria dei Falchi è rimasto deluso, per fortuna diciamo noi, via al fronte anti-spread, quindi il fondo che poi diventerà ISM, avrà come la Banca Centrale Europea come agente principale, potrà acquistare le obbligazioni dei paesi sotto tiro della speculazione, anche chi non fosse già obiettivamente come la Spagna adesso, lo ha ricordato il viceministro Grilli, e poi 30 miliardi sbloccati alla Spagna, di cui la Spagna non dovrà mettere nel calcolo del suo debito, e quindi facendo saltare ulteriormente il suo spread. Mi sembra che il bicchiere possa essere mezzo pieno dal nostro punto di vista. No, il bicchiere è sicuramente mezzo pieno e è un segnale importante che, nonostante l'immancabile teatrino che ha seguito la conclusione positiva del primo vertice, per cui non c'è stato un solo premier dei cosiddetti paesi satelliti del nord che non ha voluto far sentire la sua voce, ovviamente è una cosa molto grave, perché quando io sento chi ha responsabilità così elevate riferire che i finlandesi, gli olandesi non vogliono aiutare gli spagnoli, non solo, come dire, mi interrogo sul disegno europeo e quindi respingo alla fonte questo tipo di valutazioni, ma soprattutto mi interrogo sulla capacità che chi guida questi paesi ha di comunicare con le sue popolazioni. Questo deve essere chiaro a tutti, che se si sostengono le banche spagnole, gli italiani contribuiscono per il 18%, cioè dopo i tedeschi e dopo i francesi vengono gli italiani. Il contributo delle cosiddette popolazioni del nord è di gran lunga, ma di gran lunga, ma di gran lunga inferiore a quello che ci mettiamo noi. Quindi in questo meccanismo bisogna ragionare col meccanismo europeo, cioè dobbiamo cominciare tutti a ragionare da cittadini europei, non da cittadini italiani, finlandesi, olandesi, tedeschi, francesi. In questo senso il fatto che il meccanismo antispread venga confermato, che si dica con chiarezza che la banca agente è la Banca Centrale Europea, che si va su questa strada, che il nuovo fondo non ha più il diritto di privilegio e quindi non può, come dire, risulta gradito al mercato, nel senso che non c'è un privilegio per lo Stato, non c'è privilegio per il nuovo fondo, per cui è alla pari con gli altri, sono tutti segnali positivi, è ovvio, e questo è il bicchiere mezzo pieno che dobbiamo prenderci e a cui dobbiamo profondamente attaccarci e di cui dobbiamo essere profondamente soddisfatti. Ovviamente, come dici tu stesso, c'è l'altro bicchiere mezzo vuoto che va assolutamente velocemente riempito, perché è nel dettaglio che questa Europa si perde, un dettaglio che a questo punto non può più essere considerato frutto di leggerezza, perché dobbiamo avere ben chiara la situazione. C'è una Europa che in questa situazione ci guadagna e c'è un'Europa che in questa situazione ci perde. L'Europa del Nord, quindi non solo la Germania, ma la Germania, adesso anche la Francia, che non è Europa del Nord, insomma alcuni paesi di questa Europa ci guadagnano perché si finanziano a costo zero. Altri paesi, come ha spiegato molto bene il governatore della Banca d'Italia e come per la verità noi avevamo sottolineato in più editoriali, c'è un paese come l'Italia che sono costretti a pagare qualcosa che non devono, perché noi vogliamo non solo fare i compiti a casa, noi vogliamo pagare quello che dobbiamo pagare, perché abbiamo un rischio maggiore per un debito più elevato, ma questo non ci, il fatto di avere delle colpe non ci può obbligare a pagare di più delle nostre colpe. Non possiamo pagare anche per la fragilità europea, non è giusto. Noi paghiamo, secondo la ricostruzione del governatore della Banca d'Italia Visco, 200 punti nostri, perché abbiamo un debito più elevato, un deficit più elevato e quant'altro. Però gli altri 240 punti, 250 punti si chiamano attacco speculativo all'euro, non attacco all'Italia, non valutazione sul debito italiano. Quindi quei 250 punti non ce li meritiamo. Su questo tu ricordavi che però noi dobbiamo continuare a fare i compiti a casa, perché è l'unico modo in cui l'Italia di Mario Monti può risultare credibile poi quando va in sede europea. L'ultima riforma varata, mentre è in corso di definizione la spending review, è quella sul mercato del lavoro. Su questo tra l'altro voi uscite con, come Sole 24 Ore, con una guida. La riforma del mercato del lavoro sarà in edicola solo domani 11 luglio? Sì, non è una guida, è proprio un instant book, un libro vero e proprio che hanno fatto i nostri esperti, tantissimi esperti con la nostra redazione, ma proprio tanti, per fare un esame dettagliato di che cosa cambia per le imprese e i lavoratori dopo la legge Fornero, sui contratti flessibili, sui licenziamenti, sugli ammortizzatori. Quindi lavoro flessibile, autonomi, licenziamenti, contenzioso, tutele, solidarietà, agevolazioni, tutte le altre misure. C'è un esame dettagliato, cioè l'esposizione alla nuova norma, l'applicazione e tutto ciò che bisogna fare per orientarsi in questo mercato. Quindi questo è un libro che si rivolge ai consulenti del lavoro, agli esperti, ai direttori del personale, ma si rivolge anche al singolo cittadino. Cioè a chi un lavoro ce l'ha e magari teme di perderlo, perché non è così un passaggio di irrilevante passare dall'indennità di disoccupazione, certo, alla nuova ASPI. Cioè non è irrilevante avere più o meno di 50 anni, perché significa avere per 8 mesi o per 12 mesi, a secondo dei casi, l'indennità, e bisogna sapere a quanto è pari questa nuova indennità. Certo. E quindi tutto questo tipo di informazioni che entrano un po' in questa serie nostra, che io dico un'estate rovente con il tuo amico Sole. Cioè, cosa vuol dire il tuo amico Sole? Vuol dire che il mondo sta cambiando in profondità, incide sulla tua vita, entra nella tua casa, e noi vogliamo darti gli strumenti, come dire, per difenderti, o se non altro per informarti correttamente, in modo chiaro, diretto, semplice, e quindi darti tutti gli strumenti utili, se necessario, per difenderti, se invece come noi ovviamente auspichiamo, per fare dei passi avanti, perché in ogni caso il mondo cambia e quindi bisogna sapere che dobbiamo cambiare anche noi. Grazie al direttore del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano. Grazie a voi, a presto. Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni l'augurio, come sempre, di una buona serata. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi.